Storiacce di Raffaella Calandra. Oggi è il giorno più bello della mia vita, perché compio 10 anni. Mi sposo col mio principe azzurro. È un amico di papà, lui ne ha 47. Lui dice che è un ottimo partito e che se mi sposo con lui aiuto loro. Io gli ho detto che sono contenta, proprio come la mamma mi ha detto di dire. Devo sempre rispondere di sì. Il regalo più bello è stato quello che non devo andare più a scuola, anche se la maestra diceva che ero brava. Non importava tanto a me, era inutile. Adesso dovevo stare solo con lui a casa. Io sono felice e se tutto va bene diventerò tra 9 mesi mamma. E sarò ancora più felice. Oggi è il giorno più bello della mia vita e non devo piangere mai. La sposa bambina di 14 anni appena. 37.000 volte al giorno succede in giro per il mondo. Spose bambine consegnate a uomini che potrebbero essere loro padri, bimbe che smettono di studiare e a volte molto precocemente anche di vivere. In tutto il mondo, con una campagna di Amnesty International, c'è una mobilitazione generale a difesa dell'infanzia di queste piccole donne. Ma le spose bambine, purtroppo, ci sono anche in Italia. Solo 3 anni in più di Giorgia, che si è prestata ad un finto matrimonio organizzato da Amnesty a un'altra bimba italiana, che davvero, purtroppo e non per finta, è stata costretta ad un fidanzamento forzato, spinta verso un uomo più grande per siglare un patto di 'ndrangheta. E lei alla fine si piega e soffoca pure le sue simpatie per un coetaneo, perché anche così la 'ndrangheta rafforza i suoi legami di sangue e allarga le sue reti sulla pelle delle bambine. Da qui allora, davanti all'immagine di Giorgia, che col suo vestito bianco siede accanto al marito che potrebbe essere suo padre, se non suo nonno, parte questa puntata di Storiacce tra i matrimoni forzati di 'ndrangheta. Siete venuti a contrarre matrimonio senza alcuna costrizione, vero Giorgia? In piena libertà e nella piena consapevolezza della vostra decisione, confermate? La chiameremo Anna, ma questo è un nome di fantasia, perché Anna ha solo 13 anni e i genitori decidono per lei il suo destino e stabiliscono che deve fidanzarsi col figlio di una buona famiglia mafiosa. Anna, come Storiacce è in grado di ricostruire e raccontare, non vuole questo fidanzamento. Le piace un altro ragazzo, un suo coetaneo, e Anna all'inizio oppone resistenza, si rifugia nei suoi sogni. Anna non lo vuole Cosimo Comisso, ben più grande di lei, ma dal cognome assai pesante in quelle parti di Calabria, e all'inizio lo respinge, ha il coraggio di dirgli di no, ma quel fidanzamento deve servire a cementare maggiormente i rapporti tra le famiglie, e tutto questo non può saltare ovviamente per i capricci di una bambina. Così al telefono la mamma Melina si scusa con Cosimo. Non sa che parole trovare per non farlo arrabbiare, per non fargli cambiare idea. Lo esorta a non mollare, a non avere incertezze, perché loro avevano molte aspettative per quella futura relazione, dice. E interviene anche la zia Caterina, eppure lei tenta di convincere il futuro sposo a non cambiare idea, a non desistere dal pressare la ragazza per giungere al tanto agognato fidanzamento. Usano proprio questo verbo. Pressare i PM di Reggio Calabria mentre ripercorrono la storia di Anna, sposa bambina, nelle pagine di un decreto di fermo per 49 persone, più di 1500 pagine per mandare in carcere pezzi delle 'ndrine locali, compresi alcuni dei Comisso, degli Aquino, dei Bruzzese e dei Coluccio, nomi grossi della malavita della Locride, famiglie che cercano sempre di più di avvicinarsi pure con fidanzamenti forzati, e ci riescono anche in questo caso, perché alla fine Anna cede e nel luglio dell'anno scorso viene organizzata una cena per siglare l'unione. Questi casi di bambini che sono costretti a diventare spose fanno parte appunto del sistema 'ndrangheta di incentivare sempre più i legami familiari. Anna, come sa Don Pino De Masi, parroco di Palmi, in questa stessa complicata zona della Calabria, è solo una delle tante spose bambine di Calabria. Fanciulle immolate a uomini che non vogliono solo per interessi di 'ndrangheta. Bimbe che a quel punto smettono anche di andare a scuola perché da loro diventano proprietà dei fidanzati e dei loro futuri mariti. A 14 anni ha avuto il primo figlio, Giusy Pesce, ora principale collaboratrice di giustizia della Piana di Gioia Tauro. La stessa età aveva anche Maria Concetta Cacciola, sempre di Rosarno, e come loro tante altre ragazzine. Ma ora il fenomeno delle spose bambine, racconta Don De Masi, è limitato quasi solo alle fasce più basse delle società criminali. Queste storie erano molto più frequenti fino ad alcuni anni fa. Oggi sono forse solo rari casi. Parlo di bambine, mentre i fidanzamenti forzati in altra età per motivi di 'ndrangheta, invece quelli sono ancora molto frequenti. In quell'ambiente si incomincia anche a ragionare in modo diverso, cioè una bambina di 13 anni non è poi in condizione di contrarre matrimonio. Lei ha detto che in passato ha incrociato casi del genere. Sì, facevano la cosiddetta fuitina, scappavano col ragazzo che normalmente era più grande e a quel punto venivano costrette a fare il matrimonio riparatore. Qui non c'è una fuitina, qui c'è una bambina che anzi ha simpatie per un suo coetaneo, come spesso a quell'età, ma sono i genitori a forzarla verso un fidanzamento ufficiale con il rampollo di una famiglia di 'ndrangheta, cioè in qualche modo sono i genitori a, diciamo, quasi a venderla, diciamo, a questa famiglia. Sì, era prassi normale, ecco, quella che una volta era prassi normale ancora in qualche famiglia viene perpetuata. Cioè i matrimoni, i cosiddetti matrimoni di 'ndrangheta, alla fine non venivano decisi dagli interessati, ma venivano decisi dai genitori. O in ogni caso, se non spingevano al matrimonio a quell'età, però già c'era la promessa sposa, capisci? Esatto, se non si sposavano a 13 anni, però comunque avevano già l'impegno, per cui poi... Avevano già l'impegno, no, appunto. Perché ormai, capisci, a 13 anni non possono sposarsi più, però l'impegno sì, che impegnavano la ragazza per quel determinato ragazzo, questo era una prassi abbastanza frequente e normale in ambienti 'ndranghetistici. Questo ha comportato anche come fenomeno, diciamo, spesso l'evasione scolastica di queste bambine. Il discorso dell'evasione scolastica avviene più a livello di manovalanza dell''ndrangheta. Cioè i figli dei mafiosi, i figli li mandano tranquillamente a scuola, dove l'ignoranza dei genitori è ad un livello molto più alto. Questi genitori non vedono l'ora di sistemare la figlia con qualcuno. C'è un problema di evasione scolastica maggiore per le bambine? C'è un problema di evasione scolastica maggiore per le bambine. A 13 anni o poco di più ti do promessa sposa di un rampollo di 'ndrangheta e tu smetti di andare a scuola. Il rampollo di 'ndrangheta che si innamora di una determinata ragazza è lui che spesso impedisce alla ragazza di andare a scuola. Impedisce per ragioni di controllo, di gelosia? Sì, capisci? Dice, tu sei mia, a scuola non vai. Anna, come abbiamo sentito, non vorrebbe, ma alla fine accetta a 13 anni il fidanzamento che la famiglia le impone, come molte piccole donne imparano assai presto a fare, ad accettare cioè la propria condizione di subalternità, a subire le regole delle famiglie e anche le conseguenze più drammatiche. Così, ad esempio, Giusy Pesce sembra quasi giustificare la condanna a morte emessa a suo carico quando lei prima tradisce il marito in carcere e poi collabora con i PM. Lei che a 14 anni aveva partorito la prima figlia dopo la classica fuitina. Il meccanismo è ben noto. Lei, giovanissima, per sfuggire ai vincoli di famiglia scappa col suo ragazzo e dopo la fuga il codice d'onore vuole che ci sia un matrimonio riparatore, ma ben presto quell'unione diventa una gabbia ancor peggiore della precedente. Per la donna, una gabbia da cui Giusy alla fine scappa per salvare i suoi figli, salvare la femmina da un destino come il suo e il maschio dal finire ucciso o arrestato. E la sua, come quella di altre mamme ribelli, è la vera speranza di cambiamento in questa terra. Per questo, quella di Giusy Pesce è una storia emblematica, come ci aveva già detto tempo fa Alessandra Cerreti, ora PM milanese, all'epoca all'antimafia di Reggio Calabria, dove aveva raccolto proprio le dichiarazioni di Giuseppina Pesce. La storia di Giusy Pesce è una storia complessa, però è una storia a lieto fine. Giusy Pesce è riuscita a tenere fede al suo impegno con lo Stato. Tutto ciò lo ha fatto nell'interesse dei propri figli, per assicurare ai propri figli, che altrimenti avrebbero avuto un destino segnato nella struttura dell''ndrangheta, un futuro di libertà. Familiari che però per lei avevano decretato una condanna a morte. Una regola di eliminazione fisica soltanto per la colpa, tra virgolette, di aver tradito il marito. Quindi l'adulterio già per l''ndrangheta equivale a condanna a morte nei confronti, si badi bene, della moglie. Ovviamente non vale reciproca per l'uomo. Immaginiamoci in un contesto del genere la collaborazione con l'autorità giudiziaria. È una colpa assolutamente imperdonabile che va lavato col sangue. E le collaboratrici hanno spiegato che, a differenza che per Cosa Nostra siciliana, per cui era sufficiente per lavare l'onta d'onore che la famiglia d'appartenenza della persona da eliminare desse il consenso all'eliminazione fisica. Per l'Andrangheta si va ben oltre, cioè è necessario che la materiale uccisione venga fatto per mano del fratello maschio più grande, in assenza del padre che quasi sempre è detenuto. È materiale di questo processo un'intercettazione inquietante di un colloquio in carcere tra il fratello della collaboratrice e la nonna. È emerso questo rancore, una acredine molto forte e violenta da parte soprattutto della nonna, a cui è seguito un inequivocabile gesto della signora che mimava lo strozzamento, indicato come soluzione al problema Giusi. Ma chi sono quei genitori che vendono le loro figlie per un patto di 'ndrangheta? I dati dell'evasione scolastica confermano che le bimbe smettono molto più dei maschi di andare a scuola ben prima del tempo, ma dal mondo femminile arriva anche la principale speranza di riscatto per tutte le altre bimbe, come sentiremo nella seconda parte di Storiacce. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Storiacce. Una sposa bambina per siglare un patto di 'ndrangheta. Una bimba offerta dai genitori al rampollo del clan per stringere i rapporti con un'influente famiglia malavitosa della zona. Questa, come abbiamo raccontato nella prima parte di Storiacce, è la storia di Anna, nome di fantasia, che abbiamo usato per denunciare la storia di una ragazzina calabrese forzata ad un fidanzamento con un uomo più grande che lei non voleva, ma che alla fine accetta, mettendo da parte pure le simpatie per un coetaneo. Accetta dopo le pressioni della mamma, della zia, del padre, accetta perché così sono educate le piccole donne in certe parti della Calabria, educate ad obbedire ai codici e a mettere la regola della famiglia, che con i vincoli di sangue si rafforza negli affari criminali, prima del proprio personale volere. Se volete commentare questa puntata con noi, scriveteci anche via WhatsApp al numero 349-238-6666 o su Facebook alla pagina di Storiacce, su Twitter invece Raf Calandra. Dicevamo di Anna, promessa sposa a 13 anni e già più fortunata di tante altre che a 14 anni a volte hanno anche già partorito, come Giusi Pesce, tra le più importanti collaboratrici di giustizia calabresi ora. Mentre il mondo si mobilita per le spose bambine, soprattutto dell'estremo oriente, più volte invece ha denunciato questa piaga padre Emanuele Maggioni negli anni in cui è stato parroco in Calabria. La situazione di queste ragazze giovani, si fidanzano, le alleanze poi sono fatte dai grandi, dagli adulti, e quindi oltretutto anche, come ho segnalato, questi bambini dopo 13-14 anni non vanno più a scuola praticamente. Poi se ci sia del vero amore tra i due, bah. In questa storia la ragazzina di 13 anni viene suo malgrado costretta, sì, ad un fidanzamento con una persona di gran lunga più grande di lei, mentre lei aveva simpatie per un suo coetaneo. Per una buona parte è così di queste ragazze, che è finita la terza media, per loro è finito le scuole perché c'è già questo impegno, non possono più frequentare le scuole, normalmente è così. Ma le dinamiche che lei ha in qualche modo incrociato quali erano? Necessità, diciamo, di siglare accordi tra famiglie? Di siglare accordi, soprattutto questo, tra famiglie potenti. Quindi anche nel cerchio delle conoscenze sceglievano queste famiglie e quindi costringevano anche in parte queste ragazze a fare queste scelte che per loro erano improponibili, perché non si sentivano e sentivano schiave un pochettino dell'opinione e della società di quel posto. Può cambiare la circostanza, può cambiare l'età della bambina, ma in qualche modo la dinamica è quella, cioè quella, se vogliamo, una dinamica medioevale. Sì, dei patti tra le famiglie. E naturalmente queste alleanze sono importanti nella società di quei paesi lì, della Calabria, sono importanti. Ma per una persona che arriva da altro contesto e trovarsi in una situazione del genere, che effetto fa? Fa parte anche di tutto l'insieme, di tutta una mentalità, per cui anche le mamme già sposate non possono, per esempio, passare in certe vie, in certe strade. Se sono osservate poi dai papà o dagli adulti, poi vengono rimbrottate, poi vengono castigate, insomma. Questo succede anche per le donne adulte, queste donne sono un po' tutto il tempo un po' schiave della situazione, dell'ambiente, delle circostanze. C'è una forma di medioevo rispetto alla gestione anche proprio, soprattutto della donna? Ma credo di sì. Non dico che sia come le donne che hanno il burka, ma insomma sono molto, molto osservate e devono fare quello che l'adulto o il marito o il papà della figlia dicono. Cioè tutto questo è tradizione, quindi questo viene sì, silenziosamente esatto. Accettato. Quello che ho riscontrato è questo, che non intervengono parenti, gli adulti non intervengono minimamente, ed è questo anche importante segnalare, che per loro va bene così, invece per me non andava bene così. Nel 2015 sono stati in totale 930, calcola l'ufficio regionale del Ministero dell'Istruzione, gli alunni che in Calabria hanno interrotto la frequenza, e molte sono femmine. L'ultimo dato sul genere risale invece al 2012 e stima allo 0,86% l'evasione scolastica femminile nella punta dello stivale. Dati migliori rispetto al passato, certo, perché come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, ora anche i boss li fanno studiare i propri figli, ma anche se di meno sono comunque troppe le bambine che non vanno più a scuola, perché così vuole quel fidanzato dal cognome ingombrante a cui sono state promesse casomai già a 13 anni, come la storia di Anna che abbiamo raccontato. Perché sui matrimoni poggia molto del potere dell''ndrangheta, come ha analizzato Ombretta Ingrasci, ricercatrice dell'Università Statale di Milano e autrice, tra l'altro, di Donne d'Onore. La pratica dei matrimoni combinati è una pratica tradizionale, direi, del mondo dell''ndrangheta, che purtroppo sembra essere ancora viva. È una pratica che permette di allargare la rete di sangue e di fiducia tra le varie famiglie mafiose che condividono gli stessi valori, finalità criminali, e quindi anche potenziare la dimensione della cosca attraverso proprio una vera e propria espansione tramite questi legami di parentela con i gruppi che sono territorialmente vicini. Negli anni '80 è stato abbastanza famoso il caso dell'alleanza tra la famiglia Condelli e i Merti, che è stata proprio suggellata da un matrimonio che permise a queste due famiglie di rafforzarsi in prospettiva dello scontro con la famiglia De Stefano della seconda guerra di 'Ndrangheta. Sembra che questa pratica sia appunto ancora viva da alcune storie che sono emerse dalle indagini più recenti, e questo rientra un po' nella capacità delle mafie di riattualizzare pratiche antiche, tradizionali, in modo strumentale a proprio vantaggio, perché ovviamente questi matrimoni combinati permettono di alimentare l'ermetismo culturale che le caratterizza, che le contraddistingue. È proprio una endogamia di ceto finalizzata a tenere, diciamo, compatta da un punto di vista culturale, ma poi anche direi anche quasi militare, queste organizzazioni. Le donne sono oggetto di queste pratiche, quindi vivono passivamente la decisione delle famiglie, quindi anche giovani donne possono essere oggetto di questi scambi. La principale risposta e speranza arriva però ancora dalle donne, dalle mamme di 'Ndrangheta, che hanno cominciato a non accettare più per le loro figlie quei codici che loro stesse invece hanno subito sulla propria pelle. Ed è per questo che Don Pino De Masi, parroco di Palmi e referente di Libera, ora è abbastanza fiducioso. Per fortuna le mamme incominciano a ribellarsi al sistema 'ndranghetistico. Ci sono molte mamme che hanno capito che la 'Ndrangheta non è il futuro per i loro figli e incominciano a ribellarsi. Il problema che in questi giorni si sta discutendo, che fine fanno i figli della mafia, il problema di essere vicini al Presidente del Tribunale dei Minori di Bella, che ha sposato la tesi che in alcune situazioni dobbiamo prendere questi ragazzi e portarli altrove, quindi se necessario per un periodo di tempo togliere la potestà genitoriale. Sì, è un tema molto grosso di cui anche qui a Storiacce ci siamo occupati. Appunto, ecco, quindi credo che per fortuna, ecco, stiamo assistendo ad una fase nuova che credo che farà in modo che episodi simili vadano a finire nel dimenticatoio. Di matrimoni forzati e figlie offerte per siglare alleanze è piena anche la storia del mito classico. Linea allora alle mitiche Storiacce e a Giorgio Ioranò, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica. mitiche storiacce. Nell'antichità era ovvio che tutti i matrimoni fossero combinati. A Roma lo si faceva normalmente, i matrimoni erano anche occasione di alleanze politiche. A Giulio Cesare fu attribuita una moglie che era Cornelia, lui la sposò che Cornelia aveva appena 13 anni. In realtà quel matrimonio andò bene, tanto che quando cercarono di imporre un'altra moglie a Cesare, lui si rifiutò perché voleva tenersi Cornelia, che amava e che gli diede l'unica figlia. Nel mito non sempre andava così bene. Una tragedia di Sofocle raccontava la storia di Procne, era un'ateniese, era andata in sposa a un re straniero e secondo Sofocle si lamentava dicendo: ora separata dalla mia famiglia io sono niente, il sesso femminile niente, quando siamo bambine la nostra vita è la più bella del mondo, ma quando raggiungiamo la maturità siamo scacciate, comprate, vendute, e dopo che una notte ci ha unito un marito dobbiamo sopportare qualunque cosa e fingere che tutto vada bene. Questo matrimonio finì male perché Procne uccise il suo unico figlio e lo imbandì in tavola al marito. Sicuramente usciva da un matrimonio combinato anche Crepereia Trifena, la ragazza alla cui tomba fu scoperta a Roma nel 1899. Ne parlarono tutti, persino Giovanni Pascoli le dedicò una poesia. L'avevano sepolta la ragazza con il velo rosso da sposa e con l'anello nuziale al dito. Accanto a lei avevano sepolto anche una bambola di legno. Sappiamo che nell'antica Roma, prima di sposarsi, le ragazze, le spose bambine, dedicavano a Venere le loro bambole. Forse Crepereia non aveva fatto in tempo, era morta ancora prima della cerimonia nuziale, o forse aveva conservato la sua bambola come ricordo di un momento in cui, prima di sposarsi, era stata più felice. Ma a voi sorprende scoprire che ci siano anche in Italia storie di spose e bambine? E cosa bisognerebbe fare secondo voi? Oltre che sui nostri numeri, scriveteci se volete sul sito di Radio 24 oppure sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate il sito è radio24.it. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.